Il Signore non doveva essere di buon umore quel giorno e ordinò a Mosè e ad Aronne un cerimoniale piuttosto complicato e non privo di aspetti fastidiosi. Come si legge in Numeri 19, avrebbero dovuto trovare una mucca rossa senza difetti e che non avesse mai portato il giogo dell'aratro. L'avrebbero dovuta affidare alle sapienti mani di un sacerdote che l'avrebbe dovuta portare fuori dal centro abitato e l'avrebbe dovuta far scannare davanti ai suoi occhi. Poi questo sacerdote avrebbe dovuto intingere un dito nel sangue della povera bestia e aspergere per 7 volte, se non vado errato, in direzione del tabernacolo. Ciò fatto, avrebbero dovuto passare ad un arrosto poco appetibile, perché il Signore ordinò di bruciare carne e sangue insieme allo sterco con legno di cedro, di sopo, che è una pianta aromatica usata oggi in medicina un po' come spettorante e anche come sudorifero, e tintura scarlatta. Finalmente avrebbero dovuto lavarsi, era ora, raccogliere le ceneri e depositarle in luoghi sicuri per farne poi la base dell'acqua purificatrice di eventuali peccati. Gravi pene sarebbero toccate al disgraziato che avesse tentato di salvare almeno una bistecca. Di mucche rosse poi non si è più parlato fino all'altro giorno, quando da Israele è giunta notizia del risultato fra l'incrocio di un toro americano maculato e di una mucca israeliana. Ne sarebbe nata una mucca rossa che per i fondamentalisti religiosi costituirebbe la garanzia di poter pregare in un settore di Gerusalemme dove sono erette alcune grandi moschee musulmane. Da ciò le preoccupazioni per nuovi scontri e nuovi gravi esiti, diciamo, dell'intolleranza religiosa. L'interesse ebraico per le biotecnologie è antico. Risale a Giacobbe, il quale, come si legge in Genesi 30, 35 e 43, tentò con successo di fregare suo suocero, vendicando il fatto che questi gli aveva rifilato, dopo 7 anni di attesa e di lavoro non retribuito, la figlia sbagliata in moglie. Giacobbe voleva Rachele ed era convinto di averla ottenuta, ma più sveglio comunque di quella spia inglese che convisse 15 anni con un cinese maschio convinto che fosse femmina, il mattino dopo Giacobbe si accorse che il suocero, approfittando dei veli pudichi, gli aveva rifilato Lia, altro che Rachele. Dopo vari litigi comunque, e dopo aver preteso e ottenuto anche Rachele più una concubina per supermercato, Giacobbe propose al suocero di allevargli le pecore con l'accordo, tuttavia, che gli agnelli neri, pezzati o striati sarebbero stati suoi. L'astuto suocero, sapendo che le pecore in paese erano per lo più bianche, non se lo fece dire 2 volte e accettò ben volentieri. E Giacobbe, protoingegnere genetico, diciamo così, lo fregò. Prese rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne intagliò la corteccia a strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami, e poi attese la stagione degli amori. Quando gli animali giunsero agli abbeveratoi, gettò i rami nell'acqua, e questo mutamento del, diciamo così, del contesto percettivo, Bibbia alla mano, fu sufficiente per far nascere agnelli variamente striati, tutti suoi alla faccia del suocero, che infatti poi si arrabbiò di brutto. Da tutto ciò, perlomeno, se ne deduce da un lato che Giacobbe si conferma come un personaggio che dalle situazioni cava sempre di più di quanto fosse lecito preventivare, e dall'altro che il dibattito sulla bioetica non è poi così nuovo come vogliono farcelo apparire, e che come in tutti i dibattiti le parti non risultano mai assegnate una volta per tutte. Grazie per l'attenzione a tutti quanti, grazie a Max Ferrigno per la regia. L'appuntamento subirà alcune modifiche perché domenica prossima è Pasqua, mi si dice che siamo in vacanza. Buone giornate a tutti, ci rivediamo quindi fra 15 giorni alla medesima ora. Tra i ringraziamenti non dimentichiamo Filippo Franceschi di Villò, che continua a mandarci del materiale, gliene siamo grati, vedremo cosa farne, e saluti a tutti.